sentirli adesso, quello più violento è Mancini, che fa l'offeso. Quell'altro ha un'aria mite e sembrano due froci, tutte e due. Che ha detto? Che siamo due froci! Ah! Ma tu de più, morto de più, morto de più! Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Ci racconti lei che cosa è successo nel dettaglio? Una normale litigata da stress di fine partita in un momento concitato e ci siamo presi e scappò anche parola di troppo. Ho chiesto scusa a Mancini. Ma l'ha chiesto scusa già in campo? Gli ho chiesto scusa appena l'ho visto nello spogliatoio e boh, ho chiesto scusa pubblicamente. Non accetto accuse d'omofobia perché la mia storia parla d'altro. Io ho avuto due amici omosessuali e purtroppo sono morti. Senza peccato, chi è senza peccato, dica la verità. Senza peccato, chi è senza peccato, scagli la prima pietra. Posso solo dire a me in campo, napoletano di me, stavo detto più volte. Però non l'ho mai riportato. Questo accento, scusi, napoletano. Ha confuso. Sono nato a Napoli e la gente probabilmente legge il luogo di nascita e. Ma anche mia nonna è napoletana, però voglio dire, a me quando mi vedono mi dicono Staffelli. Va bene, noi siamo abituati, in parecchi stati d'Italia ci viene detto qualcosa di razzista, però. Senza peccato, senza peccato, chi è senza peccato? Ed eccolo il tapiro a Maurizio Sarri, Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronati in regia, Federico Binda in redazione. Pierluigi Pardo, ci sei? Pierluigi non c'è ancora, in compenso. Eccomi, non ti sentivo. Eccolo. C'è Giovanni Capuano qui con noi. Ciao Pier, ciao Carlo. Adesso... E c'è la notizia del giorno. No, adesso io vi lascio. Ciao. Dopo tre giorni a parlare di nobili ortaggi, adesso vi mollo qui e vado a trattare l'acquisto del verduraio qua sotto. Ho deciso di cambiare mestiere. No, ma oggi c'è la notizia che riaccende tutto, Pier. È roba di pochi minuti fa. Io non so se la vuoi dare adesso dopo il traffico. No, immediatamente. Ma sai come sai quelli bravi aspettare. Che dicono: abbiamo sì, aspettate, un minuto, state con un noi. Minuto di traffico, state con noi. No, subito. La diamo, Giorgio De Luca, la diamo. 800-24-0024. Per qualche stand vedremo la notizia esclusiva che è appena arrivata in redazione. Invece noi siamo seri e quindi la diamo subito. Radio voto, lo apriamo subito. Così 800-24-0024 se volete radio ci, voto, ci chiamate. Radio voto. Allora, il signor Alberto Alessi, segretario nazionale della Democrazia Cristiana Nuova, ha presentato querela nei confronti di Maurizio Sarri presso la Procura della Repubblica di Palermo perché in conferenza stampa, dopo aver dato del finocchio e del frocio a Mancini, ha detto è il primo insulto che mi è venuto in mente, la prossima volta potrò di democristiano. Quindi adesso tutti i democristiani 800-24-0024 ci possono serenamente mi sembra chiamare che per dire la cosa tapira abbia detto la prossima volta lo chiamo biondo. Quindi adesso tutti biondi, che è scivoloso però biondo, perché gente, non so se tu sai che io sono presidente dell'associazione italiana biondi e quindi richiediti subito querelato per carità mi ritengo diffidato. Sei un io noto biondo. Una proposta di legge sull'abolizione delle querele, se non in casi perché veramente è una cosa allucinante. Vabbè, comunque sì, ma è giusto, gli ha dato il democristiano, quindi sicuramente no, non gliel'ha dato, è una querela all'intenzione, perché sì. Ha detto la prossima volta è vero, la sì, prossima sì, sì. Volta potrei dargli del democristiano oppure del biondo. Che se applichiamo il tariffario di Tosel c'è da capire se la persona a cui si era rivolto è democristiano dichiarato o no. Perché biondo, se non fosse sì. Democristiano dichiarato a quel punto... Biondo sì, 4 mesi. Certo. Due giornate. Posto, no, che biondo quattro sia, mesi. Posto che biondo sia un insulto. Adesso vado a chiedere al parrucchiere sempre qua sotto. Beh, anche democristiano sì. Posto che sia un insulto. Posto che certo, sia, posto sì, che anche ecco, democristiano... Rispettiamo tutte le idee politiche, ci mancherebbe altro. Lo facciamo soprattutto perché sennò poi quello ci querela, per cui assolutamente grandissimo rispetto. Unitevi ragazzi. Facciamo dissociamoci completamente. Proporrei un minuto di silenzio. Il ruolo della Democrazia Cristiana nella storia di questo paese è stato un ruolo straordinario, lo sanno tutti, insomma. Quindi... voglio dire, ci mancherebbe altro. Sono giorni che state facendo trasmissioni sguazzando nel fango, vergognatevi. Anche noi dobbiamo vergognarci, amico ascoltatore che ci scrivi su WhatsApp. Sì, sì, sono giorni che tutti i media italiani, tutta la politica italiana, gli intellettuali italiani, gli esponenti di ogni fazione sguazzano nel fango. Vergogniamoci tutti quanti insieme. Sì, sì, sì. Ma ribadiamo però che nel vergognarci, ribadiamo che non è che aumenta lo stipendio dei giornalisti, cioè non è perché c'è questa cosa qui che sembra, capito, che uno parla di queste cose perché ha un tornaconto personale. No, semplicemente si parla delle cose di cui le persone si occupano, di cui si parla nei bar, di cui si parla per strada, di cui si parla la sera a cena. Si parla delle cose che interessano alle persone, altrimenti se vuoi parliamo della differenza fra il 3-5-2, il 4-4-2, il 4-3-3 nel campionato bulgaro. No, tutta Italia certo. Parla di questo e ne parliamo anche noi. Grazie al cielo, domani si torna a giocare con un imperdibile Frosinone-Atalanta da aprire il programma alle ore 18. Sono giorni che non si parla di calcio, ma ragazzi, però potete fare quello che volete voi, 800 24 00 24, il numero verde di Rema. Abbiamo ricevuto una qualità di telefonate che ha fatto fondere il centralino, e quindi mi sembra che noi sguazzeremo nel fango e parleremo di questi argomenti. Sono d'accordo con Pardo, parliamo del 3-5-2 4-3-1 del campionato bulgaro, quello che volete, Siete ma liberi di farlo. Li vede tutti, ecco, seri. C'ha ragione il presidente, ma anche lui ne ha parlato, però anche il presidente. No, allora, voglio farvi sentire, prima di fermarci un attimo, un paio di voci se ci riesco. Allora, conoscete la storia uscita ieri che vi abbiamo raccontato, quella relativa al collega della Gazzetta dello Sport Alessio Daronc, che sarebbe stato apostrofato da Mancini molto tempo fa nel 2001 con epiteti simili. Allora, ieri Giuseppe Cruciani nella Zanzara lo ha chiamato, così ha risposto Daronc. Lui iniziò parlando dicendo che avevo iniziato il pezzo, che non ero un giornalista, che facevo cose scorrette, sì. Così a quel punto io, come di solito cerco di fare, mantenni la calma e dici no, vabbè, se la metti così non parliamo neppure, e risalì le scale, sì, che riportavano su. Lui venne vicino alle scale e lì esagerò urlando vari insulti, tra cui quello che adesso, cioè? Mi viene fatto pesare così tanto, perché appunto mi gridò frotto. Quindi questa la versione collega. Qua ha risposto Mancini dicendo che non è assolutamente vero, testuali parole, adesso se vuoi le cerco, Giovanni. Sì, ha detto che lui non fa parte del suo linguaggio né adesso né mai, e quindi mai ha pronunciato quel tipo di offesa, insulto nel corso della sua vita, e che chiede rispetto perché quello che ha detto martedì sera a Napoli, decidendo di rendere pubblico questo caso, risponde semplicemente alla sua sensibilità, al suo modo di essere. Questo è il punto. Mi pare oggi, Pier, non so se sei d'accordo, che ci sia un certo tentativo di uscire dalla vicenda. Anche la Gazzetta più di tanto non ci torna non su. Non ho mai utilizzato quel termine, perché non ha mai fatto parte del mio linguaggio, dice, ecco, Mancini. Abbia un po' cercato, insomma, di tenere il profilo basso. Ha fatto benissimo, ecco, a parer mio. Sì, sì, ma voglio dire, però è anche vero che se uno con coraggio, nel senso che sicuramente facendo qualcosa di inusuale porta all'attenzione dell'opinione pubblica tutto questo e dice pubblicamente che Sarri non è meritevole di allenare, e quindi gli dà essenzialmente del razzista, e poi è ovvio che si presta a questo tipo di situazioni. Poi io non lo so, non ero quel giorno a Firenze, quindi non so dirti se è vero. Mi sembra strano che Daronc, che oltretutto è un collega che da tanti anni fa questo lavoro, si sia inventato 15 anni dopo questa cosa. Fra l'altro credo ci fossero anche testimoni, ma detto questo, ci può anche stare che Mancini in questi anni abbia cambiato idea. Il discorso è... Questo, come sapete, è il rumore che fa Skype quando si disconnette. Disconnettiamoci un attimo anche noi per il traffico, ma torniamo subito. Tutti convocati. Tutti convocati. Ricordo come fa rumore di Skype quando si riconnette. Comunque Pardo è tornato. Sì, sì, sono qui, scusate, anzi non mi ricordo più che stavo dicendo. No, stavo dicendo che è chiaro che quando si fa un atto, ripeto, secondo me coraggioso comunque, perché poi alla fine È chiaro che Mancini adesso qualche sfottò becero negli stadi ce l'avrà per questa cosa dell'altro giorno. Sarri pure sicuramente, però comunque Mancini secondo me era turbato dalla vicenda. Io penso che c'entri il suo percorso, il suo background, sicuramente il fatto di aver avuto esperienze in altri paesi gli ha un po' cambiato il punto di vista. E questo poteva dirlo anche lui in questo comunicato, perché cambiare sì, idea a me, fa a me parte quello, del, a me quello che dispiace, più saggi. Ecco, a me, ripeto, quello che dispiace è poi sentire che non c'è spazio per accogliere le scuse. Mm-hmm. Nel senso, io oggi ho fatto un pezzo sul Corriere dello Sport nel quale dico che alla fine Sarri continuerà a chiedergli scusa e Mancini farebbe bene a un certo punto anche ad accettarle queste scuse, nel senso che poi alla fine l'obiettivo non è quello di rafforzare la rivalità fra questi due allenatori e queste due squadre. L'obiettivo è quello di arrivare a una conclusione che ci faccia crescere e migliorare tutti. E l'unica conclusione possibile è che, a meno che uno non sia proprio un omofobo, e quindi di che stiamo parlando? Parliamo secondo me di esseri sottosviluppati, perché la mia idea è questa, insomma. Ma se una persona invece è evoluta e utilizza questa espressione perché rimane vittima di un certo tipo di linguaggio e commette questo errore, poi alla fine chiede scusa, questa diventa un'occasione per tutti per capire che le parole possono pesare come macigni, facciamo un passo avanti. Questo è quello che spero succederà, e sono convinto, conoscendo la fine di tutti personaggi, che spero sì, insomma, anche perché mi sembra ci sia volontà, leggendo il comunicato di Mancini, che ci sia questa volontà di mettere un punto, ecco, l'ha detto lui chiaramente, esattamente, no? Anche perché sennò poi a quel punto veramente poi finiamo per dare ragione ai complottisti, nel senso che se Sarri, di fronte a che chiarisce questa cosa 20 volte, non trova mai da parte di Mancini una sorta di stretta di mano sostanziale, allora a quel punto poi veramente uno può cominciare a pensare che ci sia dietro il tentativo di demolirlo Sarri, sì. E che quindi ci sia altro rispetto al calcio. Io non credo che sia così, io penso che Mancini l'altro giorno si sia sfogato per pura sensibilità e non ci fosse un calcolo dietro, però a questo punto, di fronte alle scuse, alla fine bisognerà mettere un punto e dire benissimo, cioè bisogna dare la buona fede a quel punto, sì, altrimenti fammi salutare Maurizio Crosetti. Sì. Eccoci qua, buongiorno cari. Mio noto amico, uno dei miei autori preferiti, al quale chiedo subito. Maurizio Crosetti ci ha dato pesante con i tweet dall'altro giorno e anche con quello che ha scritto ovviamente su Repubblica. C'è Sergio Delle Cave, Maurizio, che chiede di spiegare il 24 novembre, il giorno in cui è dato della signorina Garcia. Questo merita di essere spiegato. Io ho dato la signorina? Sì, così mi scrivono. Avresti dato via Twitter della signorina a Garcia. Non mi ricordo. Ti posso solo dire che in questi giorni, per aver espresso un'opinione, secondo me più che legittima, esercitando il diritto e anche dovere di critica, che è anche il ruolo del mio giornale, di commentatore di questi fatti, mi attribuisce, ho ricevuto, sto ricevendo attraverso Twitter, attraverso le mail, una quantità di insulti che, se io sommo al mio passato, che non è stato proprio quello di un'educanda quando c'era da dire, per esempio nella Juventus di Moggi, Giraudo, ben prima di Calciopoli, sì, alcune cose sui loro rapporti con gli ultra, cose che mi portarono la Digos sotto casa per alcuni mesi. Ebbene, nemmeno allora, quando si trattava di cose serie, aggressioni, pericoli veri, non c'era Twitter, per fortuna non c'erano questi dementi virtuali, nei quali mi ci metto anch'io ogni tanto, perché su Twitter scivola un po' la frizione, anche se non ricordo assolutamente la cosa della signorina. Ma adesso, al di là di questo, ti posso solo dire che invece ricordo, e perché lo so, tutto quello che si è agitato, questo maremoto incomprensibile di insulti, altro che frocio, altro che muori, altro che crepa, ma veramente non potete immaginare, su uno sfondo. Io una vaga idea ce l'ho, perché ho aperto gli sms. Su uno sfondo di questa teoria malata, mentalmente malata, secondo la quale tutto questo sarebbe accaduto per danneggiare il calcio del sud, il meraviglioso Napoli, Sarri, De Laurenti, Higuain, la nonna di Maradona, mentre avremmo e avrei scritto certamente le stesse cose per qualunque allenatore in qualunque geografia del calcio. Quindi il vero problema è un problema evolutivo, perché se siamo ancora alle caverne, per cui tutto si viene sempre letto come il Palio di Siena, che rispetto, mi piace, però intendo dire lo spirito del campanile, e tutto viene scritto dai giornalisti o giornalai, anche qui apro una parentesi, l'insulto più frequente è dare al giornalista del giornalaio. Ma il giornalaio è il primo alleato del giornalista, una categoria che si alza presto la mattina, che lavora, a differenza di molti di questi sfaccendati di Twitter, e quindi vanno io rispetto, quando ne approfitto del luogo pubblico, chi mi dà del giornalaio mi fa un complimento, ecco. Però posso dire una... mi unisco. Saluto anche Alfredo, Alfredo giornalaio. Giornalaio di Piazza del Pano a Roma. Però possiamo dire una cosa, che alla fine hanno ragione loro, nel senso che passerà il concetto che c'è una manovra di Mancini furbo che ha cercato, ha colto l'attimo per destabilizzare un avversario per lo scudetto, per il secondo posto, non so per cosa, e passerà che faceva meglio stare zitto. È passato anche nella sentenza di Tosello, è passato non lo credo. Non passa se nei prossimi giorni, come mi auguro, ci sarà un'occasione nella quale i due si stringeranno la mano, perché questa è l'unica soluzione costruttiva di questa vicenda. È che chi ha sbagliato, e sicuramente è stato Sarri, dopo aver riconosciuto l'errore, riceva la stretta di mano della persona che si sente. Sì, però riceve anche una bella pacca, Pier, perché se invece dell'allenatore del Napoli, quindi di un grande club, avesse sbagliato uno qualsiasi o anche un ultras becero delle curve, sai come amiamo gli ultras beceri delle curve, probabilmente non se la sarebbe cavata così. Oggi qualcuno l'ha scritto che hanno partorito il topolino, cioè quella sentenza lì è andata a cercare un compromesso per evitare una cosa che era sotto gli occhi di tutti, come accade cioè nella maggior parte da domenica delle sentenze sportive italiane. Andava in vacanza per tutto il resto del campionato, perché arrivava a fine maggio, a metà maggio, e questo evidentemente era qualcosa di forte, forse di inaccettabile, e si è dovuto prendere un compromesso. Voi eravate d'accordo? Io ero d'accordo. Di 4 mesi. Io ero d'accordo, Pier, perché se tu applichi il tariffario che applichi per tutti gli altri, dall'eccellenza in su, quello devi fare. Mi spieghi domenica? Beh, insomma, quando mai è stato applicato? Ci sono, da quando è passato il nuovo codice, ci sono ragazzi che giocano nelle serie minori che hanno preso i 10 turni di squalifica perché gli è stato applicato l'articolo 11.1. Ma la stessa cosa per il calciatore: sono 10 giornate, per un allenatore sono 4 mesi, e quello dice il tariffario. La punizione è la gogna mediatica. Io ti dico una cosa: no, la punizione è un'altra cosa. La gogna mediatica è altro. La punizione funziona che se io devo fare 3 mesi di galera la faccio, anche se poi ho capito lo sbaglio. Ma non puoi squalificare 4 mesi per una roba tu del puoi genere, perché lo fai con tutti gli altri. Ma adesso ti dico che da domenica, ad esempio, vorrei sapere chi punirà una qualsiasi curva per aver dato dei colerosi al napoletano, posto che oggi il colera a Napoli non c'è. Perché se applichiamo questo concetto che abbiamo applicato per uscire, diciamo, con una soluzione di buon senso dalla vicenda di Sarri e non chiudergli qui la stagione, da oggi, lo dice anche l'avvocato Grassani, si è creato un precedente. Maurizio? Sì, io credo, al di là di tutto, però, che non sia tanto una questione di tariffario. Ho scritto stamattina su Repubblica che questo è un buffetto, nessuno chiedeva l'ergastolo, ma indubbiamente credo che una piccola, anche non eterna pausa e riflessione giovasse anche a Sarri. Ma il problema non è quante giornate, quanti mesi, il problema è capire se questa terribile, bruttissima vicenda può far cambiare la percezione delle parole, e può far capire a qualcuno che se tu dai dell'omosessuale a un'altra persona non puoi in questo momento, in questo istante, credere di offenderlo, perché è come se io dessi adesso a Carlo del conduttore, cioè voglio dire, non è un insulto dire a qualcuno chi è per le scelte che ha fatto di lavoro, di religione, di sesso, di politica, è la base questa, ma se stiamo ancora parlando ne vuol dire che in Italia, non solo nel calcio, siamo davvero ai tempi dei tirannosauri e dei cavernicoli. Con tutto rispetto per tirannosauri e cavernicoli, ovviamente. Insomma, è palese che non possa essere insultante dare del gay, dare del comunista, dare dell'idraulico, dare del post telegrafonico. E stiamo ancora parlando di questo, e se passa, se si dà del giornalaio a un giornalista pensando di offenderlo, siamo di fronte a un'epoca in cui alcune persone, o molte, speriamo non moltissime, non hanno il controllo non solo delle proprie idee, ma delle proprie parole. Quindi bisognerebbe forse ricominciare proprio dalle basi, dalla scuola, dove le parole si insegnano e si imparano, dalla famiglia, dove l'educazione si dovrebbe insegnare e imparare. So che sembrano discorsi un po' moralistici, però è un problema educativo e culturale, non è un questo problema è di giustizia sportiva. Questo è sicuro, questo è sicuro. Voglio chiederti ancora una cosa, poi ti saluto, Maurizio. Come valuti invece il comportamento di Mancini dal punto di vista dell'etica professionale? Prima dicevo, Sarri si porterà addosso, al di là delle squalifiche, dei buffetti, eccetera, questa macchia sulla tuta per tutta la vita, o per buona parte della sua carriera, perché poi si dimentica, ma poi le cose tornano, o meglio, ci si passa sopra, però di Tavecchio parleremo per sempre, eccetera, eccetera. Si porterà addosso questa croce professionale per tutta la vita. Come valuti il comportamento di Mancini, che è andato lì pubblicamente a giustiziarlo? Intanto Mancini non era l'autore di un disegno criminoso, ma era una persona scossa, lo si capiva dal volto, dall'espressione, dalla gestualità, dallo sguardo, dalle parole, quindi in quel momento certamente, riflettendo di più, non dico che avrebbe dovuto essere omertoso anche lui, secondo me ha fatto bene ad aprire quel recinto. È aberrante dire le cose di campo devono restare sul campo, perché ci sono cose che non devono restare sul campo semplicemente perché non devono nemmeno entrarci, non devono esistere. Dopodiché sono d'accordo con Pierluigi sul fatto che non si può nemmeno non tendere la mano all'infinito e in eterno su una cosa che può servire a essere un punto di partenza e non un punto di non ritorno. Sì. Credo questo, che su, però questo, non... su questo io penso che alla lunga Mancini si il danno d'immagine ce l'ha avuto Sarri, ovviamente, ed è normale. E se ne è anche meritato, possiamo dire. Perché è Sarri che ha sbagliato. Però io credo, non ha bisogno dei miei consigli Mancini, credo che a un certo punto però da parte sua sarà importante far capire che questa vicenda si chiude. La si chiude perché se succederà questo, se lui accetterà le scuse di un Sarri realmente consapevole dell'errore che ha commesso, a quel punto vuol dire che c'è una volontà costruttiva. Cioè, da una cosa brutta nasce il fatto che tutti abbiamo capito e ci siamo ricordati per l'ennesima volta, e anche chi magari è un po' più avanti con l'età e non è abituato al politicamente corretto, che quella cosa lì non la si può dire perché può riaprire delle ferite e può discriminare delle persone che si possono sentire offese. E quindi avrebbe dato, io penso che succederà questa cosa, e Mancini avrà dato sicuramente un contributo positivo. Altrimenti rimane una questione di rivalità. Io sono molto contento che non ci sia stata una lunga squalifica, perché se ci fosse stata la lunga squalifica nella vulgata, nel dibattito da bar, sarebbe diventata una questione di calcio, una questione di complotto, una questione di palazzo. Invece non ce ne frega, a me non me ne frega niente. Ne riparliamo domenica pomeriggio dopo Samp-Napoli. Perché? Perché vediamo come va. Perché se il Napoli vince c'è il resto d'Italia che si indigna. No, però magari se il Napoli perde io posso anche scommettere i 2 euro del mio compenso mensile per essere qui. Per dirti che il tema su queste giornate, sulla destabilizzazione, verrà posto. Avrà riflessi, Maurizio. Poi chiediamo per la borsa. Avrà riflessi su quanto succederà? Avrà riflessi perché purtroppo siamo un paese deviato nella testa, cioè allo stadio si scarica tutto quanto, non c'entra nulla, e quindi adesso verrà interpretato nei secoli a venire come se fosse un duello rusticano tra Mancini e Sarri, e non un problema, ripeto, culturale da cui partire per cambiare lo stato delle cose. Dopodiché nello stadio purtroppo a volte si sentono cose terrificanti, siamo abituati, l'importante è non far finta di non aver sentito. Grazie Maurizio, alla prossima. Grazie a voi, ciao. Ciao, ciao Maurizio Crosetti, borsa. Sì, un avvio abbastanza scoppiettante, laser, fumogeni e bomboni. Seguiteci su Twitter, @tutticonvocati. Si ricomincia. Convocati. E oggi a carica degli ascoltatori Antonio Provincia di Salerno, Marco da Napoli. Antonio, buongiorno. Sì, ciao, buongiorno a tutti. Niente, io volevo dire la via in merito alla telenovela Sarri Mancini. Allora, da premettere che sono sportivo e non sono tifoso. Io ho iniziato a vedere la partita Napoli-Inter e già il telecronista Rai mi ha fatto girare i coglioni, scusate il termine a tutti, che 10 attacchi del Napoli, 8 erano a favore dell'Inter, perché la difesa aveva sempre l'Inter, parlava sempre dell'Inter. Uno. Meno male che sei sportivo, pensa se eri tifoso. Due, evidentemente a qualcuno non piace che il Napoli sta lassù, e guarda da tutti. Due, nel momento in cui Sarri ha chiesto scusa, ma cosa gli devono fare? Non devono mettere la ghigliottina? Cioè, vogliamo chiudere un po' questo discorso se Mancini accetta le scuse e finisce tutto qua. Beh sì, non possiamo imporle a nessuno, non possiamo imporle a Mancini. Una cosa, io non credo proprio, però io sono d'accordissimo sulla seconda parte del discorso, anche perché più o meno sono le cose che dicevo io prima. Sì, appunto. E sulla prima parte non sono d'accordo, non è vero che Napoli stia sulle palle, ci sono quelli che ti faranno Juve, quelli che ti faranno Inter e quelli che ti faranno Napoli. In generale io credo, non sono Mannheimer o Piepoli, che non fosse altro che per un fatto di varietà sarà pieno di tifosi di squadre secondo me neutrali, fuori dalla lotta scudetto, che sarebbero contenti di vedere il Napoli che vince il campionato, perché penso che sarebbe un elemento, diciamo, di novità rispetto agli ultimi anni che sono stati. A me piacerebbe molto sterilizzare questa vicenda dalle passioni. Mi piacerebbe sterilizzarla dalle passioni. E valuterei, ovviamente, il comportamento di Sarri è facile, ma anche quello di Roberto Mancini, ma sterilizzato dalle emozioni calcistiche. Però sterilizziamo, scusate, quello che volete. Oggi sulla prima pagina del Mattino, che è il quotidiano di Napoli, il quotidiano più importante, c'era un commento assolutorio per Sarri, o comunque insomma abbastanza morbido, e poi di attacco ai cosiddetti rosicanti. Quindi a Napoli pensano quella roba lì che ha detto Antonio, cioè, anche senza essere Mannheimer, a Napoli pensano quella roba lì. E quindi Giovanni, con questa ci misuriamo nelle prossime settimane. Sì, ma hanno anche diritto di pensare quello sì, che vogliono. Noi la pensiamo diversamente, però hanno diritto, ognuno ha diritto di pensare quello che vuole. È tornato un attimo Maurizio Cosetti, perché voleva forse darci una spiegazione o dirci qualcosa. Sì, anche perché, eccomi qua, no, scusate, poi non mi annoio più su una cosa che peraltro annoia per primo me stesso, e questa vicenda di Sarri Mancini. No, siccome il collegamento prima è partito con la domanda su quel mio tweet sulla signorina Garcia, che davvero non ricordavo, sennò poi uno fa la parte di Scaiola che fa le cose a sua insaputa, no? E siccome su Twitter già avevano cominciato i commenti, eccolo l'omofobo, spunta il tweet omofobo di Maurizio Crosetti che dà della signorina Garcia, allora, premesso che non me ne frega niente di quelli che la pensano così, sono andato a guardarmi quel tweet, io quando dicevo spiella il Napoli, la Roma ha preso tipo 31 gol in 17 partite, se non ricordo i numeri, spiegatelo alla signorina Garcia. Io mi riferivo alla signorina Brienza, alla compagna di Garcia, con la quale proprio a Tiki Taka in casa di Pierluigi avevo avuto un simpatico scambio di opinioni sulla solidità difensiva della Roma, e questa solidità, questo scambio era avvenuto, ricordo, il lunedì sera, il martedì poi la Roma, il mercoledì venne sommersa di gol dal Barcellona, e allora io feci quel tweet un po' cattivello forse, ma non omofo, per dire, spiegate alla Brienzina, cioè alla signorina Garcia, che forse la difesa di suo marito, del suo compagno, non è così solida. E adesso, nella malafede assoluta di qualcuno, ecco che io invece davo della signorina Garcia. Ma vi rendete conto dello stato dell'arte? Ma chiaro che è lo stato dell'arte a questo, Maurizio. Hai dato della signorina la Brienzina, non è bello. Esatto, che peraltro sta nel cuore di tutti noi, e quindi va bene così. No? Solo questo, scusate, ognuno legge, sente e interpreta quello che vuole, non c'è difesa, non c'è difesa. Sì, no, però beccarti dell'omofobo posso dire una cosa. Scaiola, allora no, ecco. No, ma infatti. Detto questo, e lo dico così proprio per la cronaca, è chiaro che questa ansia e questa attenzione da politicamente corretto qualcosa ci costa, nel senso che comunque la possibilità di scherzare, la possibilità di ridere, la possibilità di giocare viene molto limitata, e questo va benissimo, è assolutamente nella logica delle cose. E ripeto, il tema è talmente delicato, è talmente importante, la difesa dei diritti che non si transige. Però è ovvio, è evidente, quando ieri vi dicevo la differenza fra la cultura inglese e la cultura italiana, in Inghilterra tu rischi che se fai un commento, un apprezzamento sul posto di lavoro, ma che in Italia verrebbe scambiato come una galanteria, c'è il rischio che venga considerato che ti caccino via sui piedi, ogni cosa ha un suo prezzo. Però io credo in assoluto che su questo tema, e lo vediamo anche nella discussione in questi giorni sulla legge, no, delle unioni civili, poi ci sia ancora tanto da fare, e quindi sicuramente ovunque c'è stato dolore, ovunque c'è stata discriminazione, ovunque c'è stato razzismo strisciante, secondo me la cosa diventa talmente importante che tutto il resto diventa contorno, e quindi secondo me è giusto che si sia aperto questo dibattito e che si sia anche comunque punito Sarri. Chiaro, io ringrazio Maurizio Crosetti per anche scusate, vi dovevo una precisazione perché di solito a domande rispondo quando posso. Assolutamente, Maurizio, grazie. Ok, basta, grazie mille. Ciao. Marco Napoli. Salve a tutti, grazie per lo spazio. Dunque, io intervengo sulla querel Sarri-Mancini. E pur se chiamo da Napoli, però la mia opinione è diversa da quella dei miei concittadini. In sostanza io penso che la decisione del giudice sportivo sia inaccettabile per l'entità della squalifica, per l'entità della sanzione, perché pilatesca, insomma cavillosa, che va a cercare il compromesso, invece l'atto, perché mi sembra che si dica che non fossero discriminatori ma solo offensive, insomma, le parole di Sarri, giusto? No, sì. Un po' di più che offensive, ma comunque sì, molto offensive. Senso è questo, insomma, si è cavillato sul discriminatorio. Ora, sappiamo tutti benissimo che lo stesso Sarri ha detto in precedenza dei suoi giocatori: non voglio una squadra di finocchi. Vale a dire che il signor Sarri pensa e lo dà a vedere come parla, che finocchio sia frocio, come volete voi, sia equivalente, sinonimo di debole, mancante di grinta o quello che si vuole. Quindi il discorso è che è proprio discriminatorio, perché è discriminatorio il senso. Non sta scritto da nessuna parte che un omosessuale sia debole. Nello sport meno che da altre parti, quindi per me la sanzione andava presa così com'era, e ha sbagliato lui e il Napoli che avrebbero dovuto chiedere una sanzione adeguata, a rimettersi a una sanzione adeguata anziché far montare questo caso megagalattico che era inevitabile montasse al di là della sanzione, oppure ci fosse stata una sanzione di 4 mesi di squalifica con Sarri praticamente escluso dal campionato, questo caso megagalattico sarebbe diventato iper megagalattico e ne avremmo parlato da qui alla fine del campionato. Ringrazio Marco da Napoli, le faccio rispondere subito dopo il traffico da Emiliano Mondolico. Tutti convocati. Tutti convocati. Ciao Emiliano Mondonico. Ciao, buongiorno, buon pomeriggio a tutti quanti. Qui a Rivoltadata tutto bene, non c'è nessun incidente, c'è fuori il sole. Sono un po' in giro le oche, le anatre, però tutto a posto. I finocchi come stanno? Donna, in questo momento non sono piantabili, perché hanno già fatto la loro stagione, e sicuramente quelli messi giù nell'orto sono molto più buoni che non quelli che vendono nei negozi, ma questo perché noi li curiamo con più anima. Senti, ti è mai capitato di ricevere parole di quel tipo in panchina, in campo, eccetera? In panchina ti dirò una delle cose che mi hanno sempre detto: prete di parrocchia oppure falso prete. E io mi sono sempre incavolato, ma non per me, anzi per me è un onore che mi dicano che sono un prete, ma per i preti, cioè che cavolo c'entra io con i preti. E perciò è chiaro che in quel momento ho detto: se non rispettate me, rispettate almeno i preti. Guarda, io ho seguito un po', sai, sui giornali questa situazione, ed è chiaro che tutti quanti siamo d'accordo sull'assurdità, però bene che se ne parli, che cerchi di far capire che magari anche quelle situazioni che saltano fuori magari in certi posti, analizzandole bene sono abbastanza stupide, ma sai, noi viviamo lì, cioè vorrei dirti un esempio di Cremona. A Cremona c'è una parola dell'apparto femminile che viene detta come intercalare. Cioè tu dici: scatta oggi è giù la parola della, del genitale femminile. Cioè ogni tre parole dici quella parola lì. Ti dirò che io la prima volta che andavo a Cremona e tutti parlavano, parlavano di questi genitali femminili in maniera così che bella così. Città no dicevo oh, ma come, ma questi sono matti, ma come, cioè uno dice in pubblico, cioè, roba che noi non potevamo dire neanche non dico in privato, ma neanche con i nostri più stretti amici, perché tu sai che chi pronunciava quelle parole o faceva altri gesti inconsulti diventava cieco, certo. E allora, certo. Però ti dirò che dopo sono andato a 5 anni a Cremona in un istituto a fare geometri, che mi risultava anch'io abbastanza semplice dire figa di qua, figa di là, figa sa fè, figa ma le mia cuore, ma no, ma dai, figa allora. Cioè, e allora dicevo, pensa a te come... E ci sei cascato anche tu. No, diciamo che ti adesso... sei calato nella parte, insomma, sei diventato cremonese. Diciamo che mi sembrava un fatto, quello che prima mi sembrava un'assurdità, mi sembrava un fatto, non dico normale, però non ci facevo più caso. E in questo caso penso invece che sia stato giustissimo che se ne sia parlato, che si sia fatto capire alla gente tantissime cose, che soprattutto si sia fatto capire che forse è meglio quando hai qualcosa così attaccarsi ad altri argomenti, perché non potrà mai esserci una battuta di questo tipo e di questo, certo, e di questo genere, certo. Perché è molto, secondo me è molto al di fuori dalla norma. Però mi ricordo sempre quel detto cremonese, ti dirò che le prime volte che l'ho detto mi sembrava di essere un uomo, no? Perché dicevo, cavolo, finisco di essere ragazzo, posso pensare anch'io. Poi dopo alla lunga non ci ho fatto più caso. E questo è abbastanza... Pierluigi, anche a Roma l'intercalare è comune, insomma. Sì, ma cioè io a Roma non lo so, lo sapete meglio voi. Ah, lo sapardo. Giampiero Mughini una volta, tipo un anno fa probabilmente, una puntata di Tiki Taka, dice: che rapporto hai con i romani, con i romanisti, con i razziali in giro per la città? Bellissimo, ogni tanto arriva qualcuno che mi dice afro, cioè lo disse, capito? Perché fa parte, come diceva giustamente, il mondo di un intercalare. Però siccome ribadisco a costo di essere noioso, siccome un conto è dire figa, un conto è dire a figlio di, eccetera, qui siamo di fronte a una situazione che riguarda i diritti, e purtroppo nella storia del mondo ci sono state e purtroppo ci sono ancora delle discriminazioni, ci vuole il massimo dell'attenzione. Però il mister ha raccontato questa vicenda, secondo me, con il buon senso e con l'atteggiamento costruttivo che tutti dovremmo avere. Cioè, questa cosa ormai è chiara. Io ribadisco, non penso che Sarri sia omofobo. Penso che sia magari abituato a un linguaggio che non è consono, e credo che abbia commesso un errore veramente da principiante, no? Che non è educativo, punto, basta. Appunto. Sono quindi, completamente d'accordo. E quindi basta, ha capito, ha sbagliato, chiede scusa, si becca la squalifica, squalifica e gogna mediatica. Qui volevo fare entrare Giovanni Capuano, perché discutevamo appunto sulla congruità della sanzione. Secondo il mio illustre collega, invece, no, Giovanni, tu saresti stato per una sanzione terminale. Se quella cosa lì fosse accaduta a qualcun altro, magari diciamo anche fuori dall'ambito della Serie A, del grande calcio, lasciamo stare il Napoli, grandi club, quella cosa lì sarebbe stata trattata diversamente, ma non è che lo dico io. Basta fare una ricerca, ci sono giocatori che hanno preso le famose 10 giornate, che sono il tariffario da quando è cambiata la norma, e quel tariffario lì per gli allenatori prevede 4 mesi. Io, cioè, non è che sono contento o non contento, dico che per trovare una soluzione, chiamiamola di buon senso, è stato partorito un precedente. perché legare il fatto che chi insulti sia effettivamente appartenente a quella categoria che insulti in maniera dichiarata, cioè Mancini doveva essere omosessuale dichiarato, è da un certo punto di vista la negazione di una parte della norma stessa che era stata scritta, se ricordate, già per derogare al fatto che se tu davi le squalifiche per i cori per discriminazione territoriale ti eri accorto che avevi consegnato i club nelle mani degli ultras, perché quella è l'origine di del modo in cui è stata scritta la norma. Noi di buon senso in buon senso non c'è problema, riscriveremo anche questa norma, però dobbiamo dirlo che applicando quello che c'è scritto in quell'articolo lì, Sarri oggi doveva andare in vacanza fino alla fine dell'anno. Mondo? Guarda, io vedo in televisione, cioè molta gente che bestemmia in campo, perché lo vedi proprio col labiale, porco di qui e porco di là. E che dovrebbe essere espulso. E diciamo che in questo momento noto anche che nessuno più ci fa caso. E questo mi dispiace moltissimo, perché vorrei che questo modo di essere, questo modo di agire, anche se è frutto di maleducazione, è chiaro che deve smetterla, deve smetterla, perché si sta parlando chiaramente di cose molto molto importanti e del quale bisogna avere il massimo rispetto. E perciò sono completamente d'accordo che si è mollato un po' tutta quanta la faccenda, e questo episodio mi auguro che serva soprattutto a fare in modo che qualcuno che magari è abituato a esprimersi in un certo modo possa cambiare idea per amore o per forza. Bravissimo. Sempre educativo, l'obiettivo deve essere sempre educativo. È un discorso di la multa, in macchina dovrebbe essere No, che dovrebbe essere sempre tutto finalizzato a migliorare i comportamenti delle persone, non a punire in maniera fine a se stessa. È chiaro che se Sarri fosse stato squalificato per 4 mesi, il tema, che è la cosa più importante di tutta questa vicenda, sarebbe venuto meno, sarebbe diventata una questione a quel punto veramente di polemica fra complottisti, fra innocentisti e colpevolisti, che sarebbe proprio uscita dalla sostanza di quello di cui stiamo parlando. E siccome quello di cui stiamo parlando è importante ed è sacrosanto, secondo me è meglio così. E guarda, l'altra sera Enrico Mentana, che è un tifoso dell'Inter e certamente un progressista, e ultimamente insomma aveva avuto anche qualche minima polemica con Napoli, l'ha sponsorizzata pure lui questa linea, dicendo che non voleva la squalifica da parte di Sarri, per lo stesso identico motivo, secondo me, perché dobbiamo cogliere questa vicenda per capirla, per migliorare e per far sì che non si ripeta, non per, tra virgolette, prestarci al rischio che possa essere falsato il campionato per una parola che è stata detta e detto fra noi chissà quante altre verranno dette, no? Cioè, se cominciamo a fare il controllo di questo, ha ragione il mister, cominciamo a cacciare tutti per le bestemmie, alcune partite se no finiscono 4 contro 3. Grazie Emiliano Mondonico, grazie Pierluigi Pardo, ci sentiamo domenica quando finalmente si sarà giocato. Mi tengo Giovanni Capuano, ci fermiamo per il GR e torniamo subito. E saluto anche Gianluigi Pardo. Tutti convocati. Fabbrica 2.4, viaggio nell'industria che cambia. Sono Filippo Astone, vi aspetto ogni sabato alle 14 e ogni domenica alle 13 sulle frequenze di Radio 24. Per osservazioni, richieste e curiosità, la nostra mail è fabbrica@radio24.it. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Che dire, arrieccici. Convocati. Dunque torniamo con Giovanni Capuano qui con me, con molti ascoltatori in linea 800240024, con notizie di mercato su cui tra poco vireremo con il vostro permesso. Intanto ha parlato Sinisa Mihajlovic alla vigilia di Empoli-Milan, che si gioca domani sera alle 8.45, e adesso vi faccio sentire cosa ha detto sulla partita. Sulla vicenda Sarri invece ha detto che Sarri ha sbagliato, ma non crede che sia un omofobo e che al posto di Mancini avrebbe gestito la situazione in maniera diversa. Sentiamo invece cosa ha detto sulla gara e sul Milan. Ma sicuramente mi fa piacere, ma devo dire che i ragazzi dal momento quando sono arrivati io si sono sempre comportati benissimo. Questo è un altro esempio che questo è un gruppo sano, unito, compatto, e sono veramente orgoglioso di questi ragazzi, come si stanno allenando, come si stanno comportando nei momenti bui, nei momenti belli, difficili, ma siamo stati sempre compatti e abbiamo sempre, diciamo, avuto una disciplina come si deve. Questo era Mihajlovic orgoglioso del suo gruppo dopo la vittoria sulla Fiorentina, che però lo tiene sempre sul filo, non lo fa scendere dal filo sul quale camminerà fino al termine della stagione, io credo. Sì, però la notizia è che ha ragione Mihajlovic, questo è un bel gruppo, nel senso che questo è un gruppo compatto che rema dalla stessa parte, altrimenti ha avuto talmente tante occasioni per scaricare Mihajlovic che l'avrebbe già fatto. Invece in tutti i passaggi chiave della stagione, e io credo che quello simbolo sia l'intervallo di Frosinone-Milan, ennesima ultima spiaggia per Mihajlovic, con la squadra sotto 1-0 a Frosinone, quindi c'erano tutti i presupposti per mollare e per arrivare a un cambio in panchina, e invece il Milan tira fuori un secondo tempo in cui segna 4 gol. Quindi da questo punto di vista il lavoro di Mihajlovic è stato certamente eccellente. Poi ci sono i problemi di gioco, ci sono i punti che mancano, ci sono gli obiettivi che sono lontani, e c'è anche, dobbiamo dirlo, poi vediamo dopo con chi ci parlerà del mercato, c'è anche però la sensazione chiara che Mihajlovic debba andare avanti così fino alla fine della stagione, cioè il Milan non abbia gli strumenti. Proverà ad andare avanti con Mihajlovic. Non abbia gli strumenti per mettergli in mano qualche correttivo, o comunque non qualche correttivo che sposti la situazione. Comunque il Milan ha già deciso che questa stagione, insomma, vada a finire come vada a finire, si tratta di salvare l'onore e l'orgoglio. Ovviamente non di raggiungere la Champions League, perché questo mi sembra sano realismo più che una previsione. Paolo, provincia di Olbia. Sì, ciao, buongiorno. Ciao, dimmi. Mi senti? Sì, bene. Perfetto. Allora, no, nella vicenda di cui si parla da tutta la settimana, io vorrei dire che non sono con Sarri, ma sono contro Mancini. Cioè, voglio dire che è stato, secondo me, dato poco risalto alla dinamica etica della vicenda, nel senso che non è stato sottolineato che comunque c'è stato un atto di scuse. Ora, è vero che esistono degli errori imperdonabili dove è difficile anche accettare le scuse, però l'atto c'è stato, per cui secondo me sono contro Mancini, perché ha tradito questo, nel senso che sarebbe stato più opportuno che lui dicesse a quattro occhi cosa che ha fatto, che le scuse non erano accettabili. Il rendere pubblico la vicenda rende invece Mancini un po' più cattivello anche in misura maggiore dello stesso Sarri, perché è evidente, e qui tiro fuori anche che un po' siamo tutti ipocriti, fa parte del nostro bagaglio educativo e culturale a volte usare l'espressione che riteniamo possa essere più offensiva possibile nei confronti di chi in quel momento detestiamo. Quindi anch'io la penso come Mihajlovic, però su un piano attenzione, che bisogna distinguere il piano della vita privata dal piano pubblico, bisogna distinguere i ruoli, eccetera eccetera. Poi in parte posso essere d'accordo con te, nel senso che in conferenza stampa poi Sarri ha sbagliato un'altra volta, l'altra sera, cercando di minimizzare l'accaduto e di buttarla sul ridere, e bastava andare lì e dire: ho detto una colossale stupidaggine, mi scuso con Mancini, con l'Inter, con tutte le persone che sono sentite offese, punto, non se ne parla più. Dall'altro lato, insomma, Mancini sarà stato scosso, come si diceva prima, però è andato pubblicamente a demolire, spero in maniera non definitiva, l'immagine quantomeno di un collega che aveva commesso una colossale fesseria. Questo è quanto penso. Enzo, provincia di Salerno. Buonasera, io proprio in base a questo volevo dire una cosa. Secondo me Mancini ha fatto bene andare in sala stampa a dire quello che era accaduto, anche perché mi sembra un gesto di grande anche educazione, rispetto nei confronti degli altri colleghi, degli altri allenatori, e soprattutto di far calcio a livelli più bassi, perché adesso da domenica prossima ci saranno sicuramente delle situazioni strane sugli altri campi, perché il regolamento è stato praticamente diciamo cancellato, perché a questo tipo di situazione andava data una squalifica ben più diversa da quella che è stata data. Mi è sembrato come se si come se si ammettesse che Sarri ha sbagliato, però non lo si vuole punire. E questo lascia un punto interrogativo grandissimo per il prosieguo sia del campionato di Serie A, ma anche di tutti gli eventi calcistici che si avranno da qui in poi, perché la domenica qui chiunque può parlare e dire qualsiasi cosa, tanto poi vengono sdoganate le parole peggiori. È un po' quello che diceva Giovanni Capuano, grosso modo, mi sbaglio? Sì, grosso modo quello. E poi c'è chi dice: guardate che per i cori contro i napoletani non sono mai stati chiusi stadi. È vero, però è anche vero, ripeto, che quell'articolo che oggi viene applicato in questa maniera è già oggetto di una riscrittura dopo le tante squalifiche dei settori, delle curve, credo due stagioni fa, se non ricordo male, e quindi era già un compromesso al ribasso. Però noi stiamo qui, aspettiamo, poi raccontiamo quello che succede, non è che facciamo il tifo per uno o per l'altro, raccontiamo, esprimiamo un'opinione. Mi pare che Mihajlovic abbia chiarito, non è il primo che dice questo, che l'opinione del mondo del calcio è che quelle robe lì debbano restare in campo. Io non so se anche questo è un tema su cui tutti siamo d'accordo. Non che debbano restare in campo, ma non so se questo sia quello che intendeva Mihajlovic. Cioè, lui ha detto, gestire diversamente cosa significa? Significa risolverla probabilmente faccia a faccia senza farla uscire. Posto che poi quello delle scuse è un tema personale, Mancini deciderà quando, come accettare le scuse di Sarri e chiuderla lì dal punto di vista del rapporto personale, e io credo che prima o poi avverrà, però quella è una cosa personale, non si può imporre. Chiaro, che non si può imporre, però e Sarri non può imporre, può attendere e prima o poi arriverà. È tutto il resto che gira intorno invece il tema su cui è giusto dibattere. Senti, il tema che mi vorrei affrontare adesso invece, Mihajlovic ha chiarito, mi viene scritto dalla regia, rispetto il comportamento di Mancini ma avrei risolto uomo a uomo. Questo è quello che ha detto Mihajlovic. Tema che mi piacerebbe affrontare in questo momento invece è quello del mercato con Carlo Laudisa della Gazzetta dello Sport. Ciao Carlo. Ciao, buongiorno, saluto a tutti. Ciao, senti, allora El Shaarawy a Roma, ci siamo? Sì. È fatta. In attesa di definire questo passaggio in prestito con diritto di riscatto, che significa senza obblighi, semplificando come è successo un anno fa sul tragitto inverso per Mattia Destro, che arrivò al Milan con un prestito con diritto di riscatto che poi non è stato evidentemente esercitato. Sì. Però ti resta dov'è? Quindi non andrà a Roma, giusto? No, questo non è certo, perché in questo momento è così. Dipenderà anche da Gervinho. Se Gervinho dovesse eventualmente accettare le proposte della Cina, magari nei desideri a Roma si riaprirà quella porta, c'è un accordo a parole tracciato da tempo. C'è comunque l'opposizione di Gasperini, che evidentemente non vuole più privarsi di Perotti. Quindi diciamo che è in dubbio. Però escluderlo a priori non lo azzarderei. Carlo, ma chi ha deciso nella Roma di mollare momentaneamente Perotti per virare su El Shaarawy? Cioè è solo questione di opportunità, perché lo fai con il diritto senza l'obbligo, quindi fondamentalmente ti fai restituire un favore da parte del Milan, o ad esempio Spalletti, vista anche la prima partita, valuta che El Shaarawy sia più funzionale perché magari è un giocatore più tattico, più difensivo, che fa tutta la fascia rispetto a Perotti? Ma io credo che evidentemente Spalletti ha valutato che El Shaarawy gli sta bene, e evidentemente le condizioni economiche sono più favorevoli, e quindi intanto porta a casa El Shaarawy. Io credo che Spalletti non abbia posto vedi a Perotti. Le complicazioni sono di altro tipo, che potrebbero effettivamente allontanare Perotti dalla Roma. Io credo che comunque chiunque al posto di Spalletti avrebbe fatto questa scelta, visto che alla fine la Roma si avvantaggia indirettamente del no di Luis Adriano, perché fino a due giorni fa El Shaarawy era stato reintegrato dal Milan. Sì. Io non credo che il Milan lo abbia ceduto così volentieri alla Roma, nonostante i rapporti siano buoni, avrebbero preferito di no. Però è chiaro che questa è un'opportunità di rivalutazione del giocatore, quindi non è stata dovuta far sfuggire di mano. Ascolta, ma la vicenda invece la Vezzi, un giorno sì, pare in trattativa con l'Inter, poi viene smentito, poi invece si dice che magari si potrebbe ancora fare. Chiariamo questo punto? No, io dico che quell'incontro che c'è stato nelle ultime ore è il primo vero incontro che c'è stato tra l'Inter e i rappresentanti di Vezzi, quindi diciamo che se le rose fioriranno, saranno, la semina è stata oggi. Quello di cui si è parlato in precedenza era solo un antipasto, però no, io non vedo bluff in questa vicenda. L'Inter ci sta provando seriamente, poi che ci riesca o meno, questo lo vedremo da qui al 31 gennaio. Quindi resta aperta, resta aperta la storia. Sì, sì, sì. No, io a mio modo di vedere si è aperta nella notte con questo incontro, perché adesso la Vezzi ha in mano una proposta formale dell'Inter che prima era stata, come dire, abbozzata, quindi, ed è una proposta che viene giudicata in maniera positiva. Ecco perché adesso l'Inter è in pole per la Vezzi, che poi se si mette d'accordo per cederlo subito o invece si deve aspettare l'estate, lo vedremo. Comunque non è una fantasia, assolutamente. Anzi. E Guarin ha deciso, si è convinto, no, alle garanzie, no, più o no? C'è questo grosso no, mistero, no, dei cinesi, però, del Jiangsu, no? In cui possiamo comprendere Luis Adriano che va e torna, Guarin che si deve decidere e Gervinho che pare abbia rifiutato. Insomma, sono venuti a prendere un bel pacco e tornano a casa forse con niente. E forse, perché magari Guarin dice sì, perché adesso si parla anche di un'offerta per Shanghai, insomma... Resta quella di Luis Adriano è una vicenda molto strana, perché al di là poi della terribilità delle proposte cinesi, uno non parte così per poi tornare indietro in maniera... è più intelligente l'atteggiamento di Guarin, che sta aspettando, si pensa che se poi dovesse partire sarebbe per effettivamente per rimanerci lì. Adriano aveva già fatto anche le foto con la sciarpa. Appunto, no, ma in questa vicenda c'è più di una cosa che non torna, anche perché si è parlato di una promessa di denaro fatta come compenso che poi non è stata mantenuta, di un contratto che non era esattamente quello previsto. Questi hanno un sacco di soldi, e al Milan avrebbe fatto estremamente comodo creare subito questa plusvalenza notevole, e invece aveva l'elastico attaccato alla schiena. Sì, sarebbero stati soldi per fare il mercato. Parla di problemi familiari, no? Che la moglie non ha inteso trasferirsi a Nanchino. Insomma, la vicenda rimane un po' misteriosa, però per quello che ci consegnano le cronache, i club cinesi finora non sono mai stati insolventi, quindi non può essere un problema economico. Poi mettiamoci che un giocatore abbia la libertà, anzi va rispettato la sua decisione di non andare a giocare in un campionato tecnicamente ancora da scoprire, in situazioni logistiche tutte ancora da determinare. Però ci pensi prima, allora, di andare, no? Appunto, quindi io secondo me abitiamoci l'idea che comunque i cinesi all'inizio, anche gli antimercati, erano stati molto difficili convincere i giocatori. Poi tra l'altro scopri che i brasiliani in Cina ci vanno in massa. Lo stesso Luis Adriano ha giocato a lungo nello Shakhtar Donetsk, che non è una qualità proprio così esaltante. Quindi insomma, vediamo, qualcuno sicuramente non ha rigato dritto in questa vicenda, ma non penso che la colpa sia esclusivamente dei cinesi. Comunque la notizia è che oggi il Milan non ha i soldi per fare il mercato, perché con Luis Adriano avrebbe avuto del margine. Lo stesso discorso vale in questo momento per l'Inter, che aspetta Guarin. Dicevamo prima, Mihajlovic non ha gli strumenti in mano per cambiare la rosa. Io credo che la notizia a 9 giorni dal mercato per il momento per il Milan sia questa, che comprende anche tutta la partita della vicenda societaria, dove io credo che siamo vicini ad arrivare a un punto definitivo. E secondo me il giorno in cui si metterà questo punto definitivo si ragionerà anche sull'effettiva voglia di Berlusconi di venderlo il Milan, sì. Perché credo ci sia dentro anche questo nel tira e molla di questi mesi con Mr. B e con le cordate che via via si sono formate, cioè il cuore è tutto lì, cioè, tu dici che ancora minoranza o maggioranza, da dove si è partiti e che cosa è successo nel frattempo. Sì, sì, sì. Intanto per finire, Carlo, salutiamo Pepito Rossi che torna in Spagna. Sì, al Levante, no? A Levante, prestito. In prestito, in attesa, lo aspetto di Real. Un in bocca al lupo, ne ha bisogno, perché evidentemente sta molto sfortunato. Sì, ha poi bisogno... c'è l'altro, il ritorno di Zarate, no? Il ritorno di Zarate che va alla Fiorentina. Come lo valuti? Sì, c'è Tino Costa. Beh, è una bella scommessa, perché tecnicamente Zarate ha lasciato impronte a volte suggestive. Poi la costanza non è la sua qualità migliore, quindi non so, evidentemente Paolo Sosa, se scommette su di lui, vuol dire che ha la bacchetta magica per metterlo in riga. Dall'altra parte va lì per fare il backup, cioè per giocare nel ruolo in cui giocava ora Pepito Rossi, cioè scampo, sì, di partita almeno all'inizio. Grazie Carlo, sì, buon lavoro, ci sentiamo presto. A voi. Grazie a davvero. Posso dirti una cosa, Carlo? Sì. Allora, siccome tra le varie curiosità di che cosa succederà da oggi sulla questione Mancini-Sarri, c'è anche quella di capire quale sarà la tenuta dei due, che ovviamente dovranno misurarsi di nuovo con domande sul tema. Allora, la prima notizia è che Mancini domani si presenta regolarmente alle 14 in conferenza stampa. Aspettiamo di capire cosa fa Sarri. Beh, possono anche trincerarsi dietro il no comment o dietro il non ma secondo me sbagliando domande. Perché almeno hanno modo di dare una spiegazione, un senso, magari può essere l'occasione giusta per poi evitare di trascinarla oltre. Sì, allora, prima di Renata da Como e Mario da Vicenza, 800 24 00 24, voglio darmi un'altra pennellata, che è quella relativa alle Olimpiadi di Roma, la candidatura italiana per le Olimpiadi di Roma. Hanno parlato Renzi e Montezemolo. Roma è una candidatura straordinaria per il 2024. In Italia qualcuno all'inizio storceva il naso, adesso tutti ci rendiamo conto di che grande emozione sarebbe poter ospitare le Olimpiadi del 2024. Una città che può coniugare, può tenere insieme un passato che è il passato di Roma, e scusate se è poco, con un'accoglienza di straordinario livello. Consapevoli che è una grande sfida, ma è una sfida per Roma, è una sfida per l'Italia, come lo è stata l'Expo, ed è una straordinaria opportunità, 24 Olimpiadi, 25 il Giubileo storico, per avere Roma e l'Italia al centro del mondo. Hai capito, Capuano? Quindi, aspetta. Calma e gesso, come dicono in Toscana, dove dicono anche molte altre cose. Renata da Como, buongiorno. Buongiorno. Allora, riguardo, diciamo, alla squalifica di Sarri, volevo dire che la motivazione dovrebbe essere stata questa: siccome Mancini non è omosessuale, si tratta semplicemente di un'offesa. Allora, un mio amico mi faceva notare, come quando uno dice Balotelli negro di merda, e che non può essere tacciato di razzismo perché Balotelli è italiano. Vabbè. Allora mi sembra un escamotage un po' idiota. A me l'escamotage non piace, però Balotelli è di colore, quindi diciamo lì l'offesa quindi è diretta. Lì l'offesa sarebbe a prescindere compiuta, dalla carta d'identità. Renata, a prescindere dalla carta d'identità. Appunto, lì l'offesa. Nella sua follia, stiamo ragionando. Stiamo deragliando su questo. Insomma, Balotelli è una persona di colore, quindi se gli dai del nero. Che sia poi anche italiano, diventa. Se gli dicesse maledetto britannico, allora sì. Due giornate. Chi sta parlando? Mario da Vicenza sta parlando, Mario Balotelli. Sì, pronto. Mario, buongiorno. Buongiorno, senta, volevo chiedere in pratica sapere, siccome che sono 5 giorni che parliamo di questo argomento Sarri Mancini, no? Ma mi sembra che nessuno abbia fatto notare il fatto che se ci fosse, per esempio, un certo allenatore, Giovannino, che fosse dichiaratamente gay, sì, e d'altra parte Sarri gli avesse detto: senti, sei un eterosessuale, cioè, sarebbe stata la stessa cosa? Allora tutti quasi gli eterosessuali dovrebbero risentirsi di questa frase. Io ho perso il filo. Capuano, aiutami tu. cosa devo rispondere? Allora, a parte che non ci sono gay dichiarati nel calcio, questo è tema aperto da tempo. Cioè, sembra una barzelletta. Cioè, Giovannino, allenatore della... Dimmi una squadra a caso. Una qualsiasi. Di una squadra che si chiama... Il Borgo Rosso. Una qualsiasi, il Borgo Rosso Football Club, che è dichiaratamente gay. Mm. Va il Sarri di turno e gli dice... Omosessuale, no, dice eterosessuale. Eterosessuale. Ma tecnicamente è discriminatorio, tecnicamente. Onestamente, a che ora finiamo? Tra due minuti finiamo, ma questa storia qui dura ancora a lungo. Fabrizio D'Ancona, buongiorno. Sì, buongiorno, salve. Allora, di quale ortaggio mi vuole parlare? Io mi riallacciavo alle parole di Mondonico, che lui quando parla non sbaglia mai. Sì. Io amo il calcio, seguo il calcio, non do ragione né a Sarri né a Mancini. Il problema è che in campo succede di tutto, parole a destra, a sinistra. Io vedo anche il calcio più Serie A a livelli dilettantistici. Se vogliamo dare un esempio ai ragazzi, bisogna che tutti ci diamo una mano, perché qui... ogni partita è una guerra. Io però continuo a pensare che l'esempio non debba essere dato da loro signori, non debba essere dato dai calciatori, soprattutto dai calciatori professionisti. Debba venire da altri ambiti, o meglio può essere dato un esempio tecnico magari, ma non un esempio comportamentale, e forse è anche ingiusto, entro certi limiti, chiedere comunque a tutti gli sportivi professionisti, non mi sto riferendo soltanto ai calciatori italiani, di prendere per forza questo testimone del buon esempio. Certo, in un mondo ideale sarebbe perfetto, ma un mondo ideale non è, come abbiamo capito questi giorni. Domenica che facciamo, Giovanni? Ma domenica, fortunatamente, quando andiamo in onda alle 17 sono appena finite le partite dell'Inter e la partita del Napoli, quindi sperando di non dover tornare sulla questione Sarri-Mancini, parliamo di quello, vediamo cosa ha fatto il Milan e poi la Fiorentina che gioca cercando una sorpresa, e poi c'è Juve-Roma la sera. E la sera c'è Juve-Roma. Allora ci vediamo domenica, grazie della compagnia. Giorgio De Luca, nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, Federico Binda in redazione, ci sentiamo con Giovanni Capuano domenica alle 17. Che è l'amore? C'è il tuo trottolino amoroso. Wow, sì? Mi scusi, ho sbagliato camera. Oh, peccato. È peccato, sì. Io sto a cercare mia moglie, che è un pezzo di figa, invece ho trovato te, che sei un froscio che baffi.